Uno, due, tre. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qua alle 7:20. Se vi siete svegliati da poco, benvenuti. Se invece siete dalle 6:30 con noi, bentornati. Siamo pronti a leggere i giornali. Vi ricordo che avremo ospite alle 8:15 il membro del CDA della RAI, il consiglio di amministrazione Luisa Todini, per parlare anche un po' di Sanremo dal punto di vista della RAI. E poi avremo ospite qui nei nostri studi di Milano Nichi Vendola dalle 8:30 per parlare ovviamente di attualità politica. Andiamo a vedere che cosa ci propongono i quotidiani. In questo giovedì 14 febbraio c'è chi sceglie la vicenda Finmeccanica come titolo d'apertura ed è il Sole 24 Ore. Finmeccanica, poteri a pansa, l'India sospende i pagamenti. Oppure il Fatto Quotidiano che mette insieme da Finmeccanica altre vicende giudiziarie, i ladroni del vapore, questo è il titolo, il capitalismo marcio brucia i nostri soldi e finisce in tribunale, Eni Saipem, BPM, Montepaschi, Ilva, Fonsai, il Gresti, IFIL, Finmeccanica, insomma un resumé delle ultime vicende giudiziarie. E però la maggior parte dei quotidiani apre sulle parole del Papa, il discorso del Papa dopo l'annunciata dimissioni, chiesa deturpata dalle rivalità, così apre il Corriere della Sera. Per Repubblica il Papa accusa chiesa deturpata, La Stampa, le divisioni deturpano la chiesa, Libero, il Papa fa neri i cardinali, Il Messaggero, chiesa deturpata dalle divisioni, L'Unità, il Papa scuote la chiesa, Avvenire invece nell'udienza generale la guida è Cristo, il Papa a volte le divisioni deturpano il volto della Chiesa, il manifesto mette la foto del Papa col titolo l'inceneritore, basta con le divisioni e con chi deturpa il volto della Chiesa, anche per il secolo la sferzata di Benedetto. Il giornale invece apre sull'Europa che adotta la ricetta Berlusconi, tasse ci hanno imbrogliato, questo è il titolo del giornale. Beh, insomma, la vicenda del Papa è una vicenda che certamente ancora per tanto tempo campeggerà sulle prime pagine dei giornali, anche per queste parole molto sferzanti del pontefice. Io però voglio partire da che cosa? Da una notizia che viene dall'ambito giudiziario che ha davvero scioccato molti, me compreso, vale a dire la decisione dopo 10 anni e mezzo dal terribile delitto del 20 luglio 2002, quando Ruggero Jucher uccise la fidanzata Lenia Bortolotto con 40 coltellate al grido di «Sono Osama Bin Laden». E queste sono le testimonianze di chi i vicini di casa assistettero quella notte, comunque dai rumori a quel delitto, la decisione di renderlo un uomo libero. È totalmente libero, ha finito di scontare la sua pena, appunto 10 anni e mezzo. Le polemiche ci sono sui giornali, oggi leggo qualche titolo, il macellaio Jucher già libero, il giudice non voleva, così Cristiana Lodi, un'intera pagina su Libero, a pagina 19, sconti folli e indulto, condannato in primo grado a 30 anni, il giudice però avrebbe chiesto l'ergastolo se l'imputato non avesse imboccato la scorciatoia del rito abbreviato. Poi in appello diventa la condanna di 16 anni e al che iniziano, appena i termini previsti dal codice lo consentono, le prime richieste per uscire in permesso. E poi c'è l'indulto, perché per carità c'è l'indulto e quindi lo sconto della pena. Poi c'è il comportamento irrepressibile in carcere. Ma racconta Cristiana Lodi che tra l'altro quando ci furono le prime richieste di permessi ci fu un giudice, Beatrice Crosti, primo magistrato, che si oppose nettamente alla possibilità di questo permesso, anche se un permesso di 24 ore. Perché? Perché scriveva l'uomo è afferto da un disturbo bipolare che può innescare anche un solo episodio maniacale e delittuoso. E la dottoressa Crosti, scrive Libero, si era fermamente opposta al permesso, un rifiuto come di rado accade perché il magistrato aveva preso le distanze perfino dal parere positivo pronunciato da due periti, una criminologa e uno psichiatra forense. Entrambi avevano redatto prognosi di non pericolosità sociale di Jucher, mentre contrariamente a quello che diceva il giudice Crosti, il collegio dei giudici decise il permesso. E poi adesso addirittura la pena è totalmente finita, e ecco anche il giornale: se uno squartatore è libero in 10 anni. Sul Corriere della Sera ci sono le parole della madre. La madre di Alenia Bortolotto, vale a dire la vittima: non perdonerò mai Juncker scarcerato per ingiustizia. Giuseppe Guastella l'ha intervista, è un'intervista molto intensa, pagina 25. Non mi aspettavo che uscisse così presto, ma la legge è quella che è, siamo attoniti. Purtroppo la legge è fatta così, di fronte a questo epilogo infausto non possiamo far altro che restare appunto attoniti. Io non credo sia possibile far giustizia per un atto tremendo come quello che è stato compiuto. Avevamo auspicato una pena molto più pesante, almeno quella del primo grado. Purtroppo abbiamo dovuto accettare la riduzione in appello. Credo proprio che in questo caso la giustizia sia stata profondamente ingiusta. Alla domanda di Guastella: prova sentimenti di vendetta o di odio? No, è tanto profondo e intenso l'amore per Alenia che questi sentimenti non trovano spazio in noi. Ma, racconta Guastella, la voce della signora Patrizia, la madre di Alenia, diventa grave e detta le parole solo all'ultima domanda, che è questa: potrà mai perdonare chi le ha ucciso la figlia? Risponde la madre: parlo come madre, questo è il mio pensiero, per l'orrore, per la disperazione, per la sofferenza, per il mancato profondo sentimento di pietà e misericordia, non avrà il mio perdono. Così la madre di Alenia Bortolotto. C'è anche un commento di Isabella Bossi Fedrigotti in prima pagina del Corriere. Questa legge che libera Juncker, scrive Bossi Fedrigotti, è tutto regolare, la legge è stata osservata e sfruttata al millimetro, rito abbreviato, risarcimento milionario, condono, buona condotta, patteggiamento in appello consentito per qualche mese soltanto, poi di nuovo abolito, equivalenza tra attenuanti e aggravanti, hanno portato la pena inflitta originariamente da 30 anni ad appena poco più di 10, in modo che Ruggero Juncker oggi è libero, con l'unico obbligo di firmare periodicamente il registro di polizia. Evitato anche quello, stabilito dalla sentenza di un ricovero di 3 anni in una casa di cura. Ma davvero è giusto che un uomo reo di aver intenzionalmente assassinato in modo barbarissimo e crudele la sua fidanzata, finendola con 22 coltellate nel bagno di casa trasformato in una macelleria, torni in libertà dopo 10 anni soltanto? La legge è davvero così rigidamente ferrea, simile quasi a un meccanismo robotizzato da non lasciare spazio a rinvii, ripensamenti di alcun tipo, che in questo caso specifico sarebbero sembrati particolarmente opportuni, visto che l'omicida aveva dato segni di squilibrio in carcere, si era sottoposto a cure psichiatriche, è guarito del tutto, è risanato per sempre? Ce lo si chiede per forza. La rete, verace vox populi, è già in tumulto e grida il caso J. Simpson, la star di colore prima del football e poi del cinema, che anni fa, grazie ai suoi super pagati grandi avvocati, è stato abbastanza incredibilmente assolto. Insomma, davvero, davvero suscita scalpore la notizia. Poi ognuno può pensare quello che vuole, anche sulla stampa una pagina: Juncker libero dopo 10 anni, l'amarezza della famiglia, non ha mai chiesto scusa. Prima della pubblicità anche questa notizia di cronaca che si tinge di giallo, ne abbiamo parlato anche prima, ne abbiamo accennato alle 6.30, vale a dire questo assessore donna di Mira, comune in provincia di Venezia, con a capo una giunta del Movimento 5 Stelle, Roberta Agnoletto, e c'è il giallo che va su tutte le prime pagine dei giornali per criticare la decisione presa dal comune di sospenderla. Lei dice: perché sono incinta. Mira, la giunta 5 Stelle caccia assessore, è incinta. Così Tony Iop dedica una pagina, pagina 10 dell'Unità. Ma anche sul Giorno: io licenziata perché incinta, l'assessora attacca il sindaco Grillino. E Bagar nel Veneziano fa un'intervista dicendo: mi voglio sostituire a causa della gravidanza. Ovviamente il comune rilancia: non è vero, non la mandiamo via per quello, è che stava solo 2 ore al giorno a lavorare, quindi c'era bisogno di una persona più a tempo pieno. Ma la polemica ormai è partita anche sul Corriere della Sera: via l'assessore incinta, accusa il sindaco Grillino. Il giornale lo mette in prima pagina con ovviamente tutto questo fa gioco in campagna elettorale. In prima pagina il giornale mette proprio la foto di Beppe Grillo a centro pagina: follie grilline, il partito di quest'uomo lascia a casa le donne donne incinte. Il nuovo riparte dai vecchi vizi, assessore licenziato per il pancione. C'è anche un commento di Anna Maria Bernardini De Pace. C'è da dire che insomma le versioni sono discordanti. Lei dice: mi hanno lasciato a casa perché sono incinta. Il sindaco di Mira e il comune invece dice: non è vero, veniva poco a lavorare, abbiamo bisogno di una persona che faccia l'assessore a tempo pieno. Giallo non giallo, andiamo in pubblicità. Ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. E allora eccoci alle 7:35 minuti. Come detto, molti giornali, la maggior parte apre sulla vicenda, sulle parole del Papa. Papa Ratzinger, dopo l'annuncio due giorni fa, dato in latino, di volersi dimettere, ieri ha spiegato in italiano il motivo. Ha detto: il Papa ha scelto liberamente, pregate per me, ma soprattutto quello che ha fatto è stato dire delle parole che sono sulle prime pagine di tutti i giornali. Il pontefice che si scaglia contro gli individualismi e le divisioni della Chiesa, parlando di una Chiesa dal volto a volte deturpato dalle rivalità. Davvero parole molto molto pesanti che trovate su tutti i giornali. Il pontefice scrive a pagina 2 il Corriere della Sera, evoca il volto della Chiesa a volte deturpato, e si rivolge così ai fedeli: ho sentito l'amore che mi portate. Racconta in qualche modo Gian Guido Vecchi in un retroscena a pagina 3 del Corriere della Sera: no a un egoismo ipocrita, i segnali lanciati al conclave, un monito anche contro la ricerca di gloria e successo. In qualche modo ha tracciato anche l'identikit del successore. E ora mancano 15 giorni alla fine del pontificato, scrive Vecchi. Già nella Santa Sede c'è chi annuncia altre sorprese tra virgolette di quello che potrà succedere in questi 15 giorni. Certo, perché si chiede l'impulso riformatore di Benedetto XVI, l'appello ripetuto alla conversione, alla riforma spirituale della Chiesa, ha conosciuto resistenze e inerzie interne. Nei corridoi c'è chi pensa a una personalità carismatica, chi parla della necessità di un uomo di governo, questo per il successore del Papa. Il collegio cardinalizio comprende personalità forti e sono i papabili di cui si parla in questi giorni. Benedetto XVI non ha interrotto le sue udienze ai vescovi italiani. Domani vedrà i Liguri, ci sarà il cardinale Bagnasco. Sabato riceverà i Lombardi, guidati dall'arcivescovo di Milano Angelo Scola. Altro nome della rosa dei favoriti è il prefetto della congregazione per i vescovi canadese. Ma Ratzinger ha voluto per tempo che le regole del conclave tornassero a prevedere sempre la maggioranza dei due terzi del collegio. Il quorum è dunque di 78 elettori su 117. E insomma si profila quello che potrebbe essere il nuovo Vaticano. Torna a parlare il teologo dissidente e scomunicato dalla Chiesa Hans Küng, una delle anime più critiche della Chiesa. Lo fa in un'intervista a Repubblica ad Andrea Tarquini. A Roma c'è un clima da fine impero, la curia ostacola il rinnovamento. Hans Küng dice che il nuovo Papa intanto deve essere un papa che non dovrebbe essere troppo anziano, ma al tempo stesso non ha bisogno di essere giovane per poi restare papa 20 o 30 anni. Un pontificato lungo porterebbe a una pietrificazione della Chiesa. Sarebbe meglio un papa non europeo, chiede Andrea Tarquini. Non importa da dove verrà, conta che non finisca per essere romanizzato e curializzato. Ratzinger non veniva da Roma, ma è stato alla fine più romano dei romani e della curia. Se un papa tedesco o di colore finisce integrato nel sistema della curia, la sua origine non serve. Insomma, parla Hans Küng di una chiesa in crisi e del nuovo Papa che è chiamato alle scelte epocali. Intanto le scelte, a proposito delle scelte, molto si gioca sui termini, sui vertici dello IOR, dopo che era stato mandato via Ettore Gotti Tedeschi. Si attende molto la decisione su chi sarà il nuovo capo della Banca del Vaticano. Massimo Franco oggi sul Corriere della Sera scrive che la scelta in realtà sarebbe già stata fatta. Subito il nuovo presidente IOR Benedetto XVI firma il decreto, via libera la nomina, sarebbe un banchiere belga. Scrive Massimo Franco sul Corriere, pagina 5, potrebbe essere il primo atto dell'interregno inedito tra Benedetto XVI e il successore. È possibile che nei prossimi giorni ci sarà la nomina del presidente dello IOR, annunciato ieri il presidente della sala stampa, il portavoce della sala stampa vaticana, vale a dire padre Federico Lombardi. Indicazione generica, in realtà il Papa avrebbe sottoscritto formalmente la scelta ieri sera. Si tratterebbe di un banchiere belga il cui nome girava da una decina di giorni, che arriverà dunque prima del 28 febbraio, a partire dal quale anche il vertice di governo da quel giorno Vaticano sarà dimissionato. Significa che il pontefice eletto dal prossimo conclave non avrà il problema di cercare un nuovo capo della banca del Papa, come viene chiamato l'Istituto per le opere di religione. Si sa che per trovare il profilo giusto il Vaticano si è rivolto ai cacciatori di teste della Spencer & Stewart di Francoforte, una delle aziende di consulenza più prestigiose, e si parla di questo banchiere belga, così scrive Massimo Franco. Sul Vaticano e sullo IOR si concentra anche Marco Lillo in una pagina del Fatto Quotidiano. La fuga dei capitali vaticani, 230 milioni dall'APSA a Londra. Che cos'è l'APSA? È l'ente economico più importante dello Stato Vaticano assieme allo IOR, vale a dire l'amministrazione del patrimonio della sede apostolica. E racconta Marco Lillo sul Fatto, negli ultimi mesi c'è stato un flusso inarrestabile di denaro che ha preso il volo da Roma a Londra. L'APSA ha effettuato bonifici per circa 229 milioni di euro negli ultimi 3 anni, ecco, si parla di 3 anni. La Procura di Roma ha scoperto questa emorragia di capitali in uscita dall'Italia quasi per caso. I pubblici ministeri che stavano controllando i conti dello IOR presso la filiale dell'ex Banca di Roma, ora Unicredit, nelle zone limitrofe alla Città del Vaticano, hanno scoperto questi flussi in uscita, sui quali ora vederci chiaro. Anche il Fatto dice che il prossimo responsabile dello IOR sarà quasi certamente straniero. Il Corriere dice che sarà belga, qualcun altro giornale scrive che sarà svizzero, che c'è anche in pole position un italiano. Insomma, sta succedendo qualcosa che va al di là della portata storica dell'annuncio delle dimissioni che ovviamente tira in ballo intrighi e solite battaglie di potere all'interno del Vaticano. Tornando senza fare molti passi dal Vaticano in Italia, c'è da dire che oggi trovate puntata bis sui giornali tante e tante notizie di inchieste giudiziarie. Beh, intanto gli sviluppi di Finmeccanica. La notizia di Finmeccanica è che il risultato per ora è che l'India ha sospeso il contratto da 750 milioni contestato, quello per cui, secondo la procura di Bustarsizio, ci sono state delle tangenti, cioè la vendita di alcuni elicotteri al governo indiano da parte di Finmeccanica. E allora Marco Masciaga racconta, pagina 3 del Sole 24 Ore, lo scandalo che ha travolto i vertici di Finmeccanica e della sua controllata Augusta Westland sembra destinato ad avere ripercussioni che vanno al di là dei destini giudiziari dei top manager coinvolti. La conferma di quella che per ora non era che una semplice paura è venuta da New Delhi, dove secondo due diverse fonti il Ministero della Difesa indiano avrebbe deciso di bloccare il contratto da 750 milioni di dollari siglato nel 2010 con Augusta Westland per la fornitura di 12 elicotteri. E dunque questo è il primo effetto. Insomma, si tengono i soldi, gli indiani. Si tengono anche i marò. Qualcuno si ricorda che si tengono anche i marò. Questo è il primo effetto. Anche per il Corriere della Sera, l'India blocca gli elicotteri dell'inchiesta Finmeccanica. Intanto il manager Orsi, amministratore delegato, è stato sentito, ha visto anche la visita di un deputato radicale, Maurizio Turco, che è andato a trovarlo in carcere a Bustarsizio. Ho agito per il bene dell'azienda, ha detto appena è stato arrestato. Ovviamente i magistrati ora sono a caccia delle false fatturazioni, così scrive sempre il Sole 24 Ore a pagina 5, l'articolo di cronaca è di Stefano Elli. Giuseppe Orsi, tuttora presidente di Finmeccanica, trascorso la seconda notte del carcere a Bustarsizio, ecco, qui è stato incontrato dal deputato radicale Maurizio Turco. L'inchiesta della procura va avanti per cercare di capire dove trovare le false fatturazioni, dove si anniderebbero le tangenti. Il valore della commessa era di 556 milioni, le fatture sospette riguardano 22 milioni. La tesi dei PM è che società riconducibili ad Asce e Gerosa, due degli intermediatori, avrebbero fatturato ad Augusta qualcosa come 21 milioni di euro di software applicativi per visori tridimensionali destinati ad alcuni modelli di elicotteri. Per i PM quelle fatture sarebbero fasulle o quantomeno gonfiate a dismisura. C'è anche un giallo legato al CSM, cioè il Consiglio Superiore della Magistratura, l'organo di autogoverno dei giudici, perché scrivono i giornali che ci sono state delle telefonate di Orsi per ostacolare le indagini. Il caso approda al CSM perché l'ex toga, ex giudice che lavorava per l'azienda, Manuela Romei Pasetti, è stata appunto nominata come consulente da Finmeccanica. È stata già presidente della Corte d'Appello di Venezia, racconta Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera. Ci sono delle telefonate tra lei e Orsi, parlano della nomina dell'ex magistrato pronta a dimettersi dalla giustizia per passare a Finmeccanica. In questa telefonata dice Orsi: ciao, per dirti che ho fatto tutto, ho dato le dimissioni. Questo dice Romei Pasetti. E Orsi il 27 marzo risponde: abbiamo fatto il consiglio, hanno approvato la tua nomina. E quasi si scusa per l'esiguità del compenso, 30.000 euro, che Orsi definisce irrisorio, però intanto è il primo passo. Si tratta di qualche ora di lavoro al mese. Beh, qualche ora di lavoro al mese e 30.000 euro, ma capisco che le cifre viaggino alte, magari, però qualche ora di lavoro, 30.000 euro al mese, non è proprio irrisorio come compenso. In ogni caso, si evince, secondo i magistrati, la volontà di contattare il PM titolare dell'inchiesta, cioè l'accusa è questo: si sarebbe utilizzato in realtà le conoscenze che questo ex magistrato Manuela Romei Pasetti aveva all'interno della magistratura per contattare i PM che stavano indagando su Orsi. Ovviamente queste sono le ipotesi dei magistrati. Ex magistrati interferirono con l'inchiesta, queste le carte anche sulla Stampa, pagina 11. Sta di fatto che al momento Orsi si trova in carcere. Io ho fatto anche una battuta, se si può sorridere di queste cose: è nello stesso carcere di Bustarsizio con Fabrizio Corona, di cui si attende domani una fuga spettacolare in elicottero, ovviamente. Il traffico. E allora, eccoci qua con nuove inchieste giudiziarie, questa volta gli sviluppi anche di quello che riguarda il presidente uscente della Lombardia, Roberto Formigoni. Le banconote da 500 euro con cui Formigoni faceva i bonifici, c'è un teste, è il capo area della Banca Popolare di Sondrio, dove aveva un conto l'ex presidente della Lombardia, scrive il Corriere della Sera. Più che a un presidente di regione, somiglia a un maneggiatore di banconote da 500 euro che non vengono dai suoi stipendi pubblici. Tra il 2003 e il 2005, racconta questo bancario ai magistrati, mi capitava di recarmi al Pirellone, di essere ricevuto da Formigoni, di avere da lui somme in contanti per importi variabili compresi tra i 5 e i 20.000 euro. I soldi mi venivano consegnati personalmente da Formigoni negli incontri a quattro occhi che avevamo al Pirellone e servivano per eseguire bonifici a favore di Emanuela Talenti, alla quale, scrive il Corriere, il governatore era in quel momento legato. Taglio di banconote da 500 euro generalmente, aggiunge il bancario, per consentire di bonificare le somme in concreto trasferite, mi venivano consegnati questi importi in contanti che venivano versati su un conto in appoggio per cassa della banca e usati come provvista per i bonifici a favore della Talenti. Formigoni, riferisce ancora al bancario, non voleva far figurare uscite dal suo conto corrente personale per importi significativi a favore di questa persona. Poi si parla delle cene di lavoro, parla anche Sadler, Claudio Sadler, famoso ristoratore che fa crollare, scrive il Corriere, la linea Maginot sulla quale Formigoni si era sempre attestato. E cioè parla Sadler di cene in cui pagava sempre d'accò, in cui, si racconta anche sugli altri giornali, era appassionatissimo Formigoni di champagne, di tre confezioni di crema del viso acquistate in pochi mesi, con il suo segretario che dice la usa come colla per i manifesti. Come colla per i manifesti? Ma come colla per i manifesti? E la leggo così, insomma, questo dai verbali dell'interrogatorio. Tre confezioni di crema da viso acquistate in pochi mesi col suo segretario che dice la usa come colla per i manifesti. c'è anche questo. In ogni caso, il test che inchioda Formigoni per il Fatto Quotidiano mi dava fino a 20.000 euro per la ex. Un funzionario di banca consegnava i contanti al Pirellone. Ovviamente è una testimonianza, Formigoni ha già detto che non c'è nulla contro di lui. Anche Repubblica titola champagne e creme per il viso, ma dal conto di Formigoni non usciva neanche un euro. Secondo l'accusa, Dacco pagava tutto, pagava i lussi. Beh, insomma, mettete insieme questo, mettete insieme la condanna in primo grado a Fitto, ex governatore della Puglia, che dice: sono stato condannato ma perché io non conosco il giudice, come qualcun altro conosceva il giudice ed è stato assolto. Si riferiva a Nichi Vendola, che sarà nostro ospite alle 8.30. insomma, il clima è quello che è, pesante. Berlusconi evoca la manona giudiziaria, questo è il titolo di pagina 15 del Corriere della Sera. Anche Maroni se la prende per la vicenda Finmeccanica e per gli accostamenti che sente con la Lega. Maurizio Belpietro su Libero è certo e dice: i PM votano e l'Italia chiude. Insomma, cari italiani, siamo sempre lì, gira e rigira da 20 anni il conflitto tra politica, magistratura, siamo sempre alle solite. Dal punto di vista del centro-sinistra, il tema che tiene più banco è quello delle possibili alleanze e sicuramente delle possibili alleanze tra Monti, Bersani e la presenza appunto anche di Nichi Vendola, che è uno degli elementi da cui partiremo più avanti. C'è anche Beppe Grillo che ha deciso di andare in TV. Ieri è andato in radio, tornerò in TV per un'intervista di 30 minuti, lo fa a Sky domenica, e alle 20.30 sarò su Sky TG24, mentre alle 21 sarò su Cielo. Se faccio il botto poi sarò in difficoltà. Queste le prime ammissioni secondo Repubblica di Beppe Grillo, cioè va in TV, viene accusato di essere da Bersani un pifferaio, è un po' come Monti ha detto di Berlusconi, e insomma questo dal punto di vista della campagna elettorale. Dal punto di vista dell'economia invece c'è da registrare ieri la giornata della collera, come l'hanno chiamata i rappresentanti delle imprese che hanno, soprattutto del settore edile, che hanno fatto questa iniziativa per denunciare la profonda crisi del settore delle costruzioni in Piazza Affari. Vedete, c'è questa foto con tutti i caschi gialli tipici di chi lavora nel settore edilizio, messi davanti a Piazza Affari per simboleggiare, come racconta Marco Morino sul Sole 24 Ore a pagina 37, come nel quinquennio 2008-2012 ci sia stata una riduzione degli investimenti nelle costruzioni del 26%, con meno 47% per le nuove costruzioni, meno 39% per le opere pubbliche. Il problema che ha portato alla collera delle imprese è anche il fatto che lo Stato non paga. Raccontava sempre ieri il Sole 24 Ore, due giorni fa, che ci sono 70 miliardi che i fornitori della pubblica amministrazione devono avere, e sono sempre di più le imprese che muoiono per crediti, non per debiti, ma per crediti nei confronti dello Stato che non vengono pagati. Il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi a questo proposito fa un'intervista sul Quotidiano Nazionale sulle imprese in crisi. Basta promesse, ci vuole una terapia shock. Squinzi boccia le ricette dei partiti. Dice, intervistato da Achille Perego: molti partiti hanno espresso un grande interesse per il progetto Confindustria per l'Italia, segno che la necessità di un cambio di passo è percepita. Il progetto, il cui perno è la logica industriale centrata nel manufatturiero quale motore di innovazione e creazione di posti di lavoro. In realtà la situazione di carenza di liquidità e credito, ci sono appunto i miliardi di debiti che le imprese hanno con la pubblica amministrazione. Dice Squinzi: Confindustria propone come misura cardine il pagamento immediato di 48 miliardi di debiti pregressi. L'intervista la trovate a pagina 16 e 17 del Quotidiano Nazionale. Che dire, siamo in chiusura. C'è spazio per qualcos'altro? No, non c'è spazio per nient'altro. Allora, diamo la linea al giornale radio. Alle 8.15 avremo Luisa Todini del Consiglio di Amministrazione della RAI. Alle 8.30 Nichi Vendola qui negli studi di Radio 24 a Milano. A dopo.